Non so dirti quel che sento e non so scrivere ciò che penso, ma posso regalarti questa mia sinfonia d'amore. My Symphony of Love. Della mia vita cosa sai? Quello che prendi e quel che vuoi, ma nel mio cuore hai visto mai? Ci sono mondi che neanch'io ho mai scoperto, ma ti aspettano. Se la mia vita è quel che vuoi, guardala meglio e troverai quelle risposte che non sai. E troverai quel che non so, ma se lo chiederai te lo darò. Prendimi tutto quel che puoi, questi miei occhi sono tuoi e la mia anima se vuoi. It's a symphony of love, never gonna lose it, I'm sure of. For I know love will die till tomorrow. It's the symphony of love, and it's gonna take you high above. Carry on, carry on, carry on. It's the symphony of love, and it's gonna take you high above. Carry on, carry on, carry on. Ti darò musica e poesia, ti darò i sogni e la magia, e quei sorrisi che potrò. E se vorrai quel che non ho, dopo un istante te lo porterò. Prendimi tutto quel che puoi, questi miei occhi sono tuoi. It's a symphony of love, never gonna lose it, I'm sure of. For I know love will die till tomorrow. It's a symphony of love, and it's gonna take you high above. Carry on, carry on, carry on. Symphony of love, never gonna lose it, I'm sure of. For I know